questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati anche per questo fine settimana a RadioTube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che ormai lo sapete vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile. Questa settimana ci sarà del perdibile, lo scopriremo solo ascoltando. Di tutta questa settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web che promettiamo anche in questa decima puntata di non chiamare popolo della rete. Daniele? Non si può parlare di popolo della rete perché siamo sotto silenzio elettorale, perché ci sono le primarie, giusto? Quindi noi non possiamo parlare di politica, non possiamo parlare di politici, però voi nel frattempo potete invece scriverci utilizzando l'hashtag RadioTube, quindi cancelletto RadioTube, oppure a @MartaCagnola, @DanieleBellasio, è sbagliato, @DiBellasio è giusto. Sbagli il tuo. Perché tu sai il tuo numero di telefono a memoria? Assolutamente no. È tutta colpa delle memorie dei telefonini. Hai ragione. Dei danni della social vita. Hai detto una cosa molto vera. Non possiamo parlare di politica perché c'è il silenzio elettorale, cioè solo non c'è calcio. La par condicio, facciamo finta che ci sia la par condicio. E quindi io aprirei questa puntata di RadioTube parlando di primarie del PD. No, veramente, non possiamo parlare. Allora, diciamo una cosa bella di ognuno dei tre candidati. Sì. Parti tu. Facciamo una cosa, invece. Ascoltiamo qualcosa di bello. Lo stesso numero di secondi di clip di ognuno. E diciamo che tutte e tre sono dei begli uomini, che è vero. Vero, verissimo. Che è vero. Tu che quale è vero? Preferisci? Dai, non farla diplomatica. Lo dico dopo. Lo dico abbiamo dopo. Già capito che non lo sapremo. Partiamo da un filmato, meglio un estratto da un filmato che mi è piaciuto moltissimo, magari ve lo dico alla fine della puntata. Un filmato di un gruppo, di una squadra satirica particolarmente conosciuta a chi frequenta il mondo della rete. Si chiamano Il Terzo Segreto di Satira. Sì. Hanno fatto questo filmato che è dedicato in particolare a uno dei tre candidati. Che è bello e democratico. Bello e democratico. Hashtag bello e democratico. Hanno usato tutti e tre molto bene i social, diciamolo. Per bravissimi. Una volta. Secondo me uno dei tre è stato più bravo, però lo diciamo dopo. Dopo, ascoltiamo un estratto da questo Terzo Segreto di Satira. È un leader. È il leader. È carismatico, trascinatore. Sa parlare alla gente, sa parlare ai media. È l'uomo giusto per il cambiamento del partito e di tutto il paese. E chi è? Sei pronto? Gianni Cooperlo. Ma come Gianni Cooperlo? Compi 30 anni oggi. Data importante, regalo importante. Buon compleanno. Ma come dei guanti? Sono di sartoria. Con questo freddo. Champagne, olio per massaggi e atmosfera. Nonostante tu sia la mia. Ma come mango? È stato il tormentone di questa settimana, di questi ultimi giorni. Mi dissocio. Ma come mango? Io sono per la par condicio. Cioè, mango come tutti gli mango altri. Mango va bene. Mango un gran. Ma è vero che va a Sanremo? Potrebbe andare a Sanremo. Li scopriremo mercoledì i nomi. La lista ci sarà mercoledì. Vabbè, io sono perché ci sia lui. A me piace mango. Sì, ci piace. Ci piace. Questo di mango, era. Per fortuna possiamo parlare. Era una amabile presa in giro. Presa in giro di Cooperlo, bello e democratico, bello l'abbiamo democratico. Detto. Tutti e tre i candidati si sono divertiti molto con gli hashtag. E con i loro fake. Hanno tutti dei fake. Il fake quello di Cooperlo con bello la e fake. Bello e fake. Bello e fake. Poi c'è Cippo Pivati. Cippo Pivati e Matteino, com'è? Renzo Mattei. Ci sono tutti. Fake. Secondo me quello che ha saputo gestire meglio gli ultimi giorni sui social e non solo, lo dico. Ti stai sbilanciando. Non ti sto dicendo chi è il più bel ragazzo, lo dirò alla fine della puntata. Però voi telespettatrici avete capito. Non ancora, lo svelerò alla fine della puntata, però secondo me quello che ha saputo gestire meglio la comunicazione in questi ultimi giorni, se non altro, è stato Pippo Civati o Cippo Pivati, a seconda. Cosa ha fatto? Si è amabilmente, è la seconda volta che lo dico, divertito a prendere in giro Fabio Fazio, perché sì. Fabio Fazio, che tu ben conosci, ha invitato gli altri candidati. Esageria. Beh, non ha invitato lui però, non l'ha invitato. E allora lui sai cosa ha fatto? Si è autoinvitato. Si è autofaziato? Si è faziato e ha fatto una sua personale puntata di Che Tempo Che Fa, finta, ascoltiamo un estratto. Che alla fine avrà avuto una audience quasi... Planetaria. Sentiamo. Filippo, e con noi il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Prima di entrare nel vivo, insomma, della nostra conversazione, la domanda più ovvia è: perché ha deciso di candidarsi alla segreteria? Ma guardi Fazio, io la voglio ringraziare perché la sua è la trasmissione per me preferita e anzi volevo scusarmi perché tante persone le hanno scritto email in questi mesi per convincerla ad invitarmi, non era il caso, bisognava essere più sobri. La Rete premia l'originalità. E questo è stato originale. Lui ha preso i video, li ha mandati in onda, insomma, di fronte al suo pubblico e si è autointervistato. Secondo me è stato particolarmente originale. Comunque, alla fine di RadioTube di questa puntata vi dirò chi secondo me non è il candidato ideale, ma è più carino. No, io dirò solo chi è ma più carino. Ma secondo me non si può dire, perché la par condicio vale anche per l'estetica. Vabbè, ci meditiamo durante tutta la puntata. Consultiamo gli avvocati nel frattempo. Ci risentiamo tra poco. I giudici costituzionali anche. Sì, perché così magari tra 8 anni ci danno la risposta. Vabbè, ci risentiamo tra poco. Ci cacciano. RadioTube. Rieccoci insieme con RadioTube. Come sempre potete trovarci, anche scovarci via Twitter, i nostri account. Ecco, vediamo se li so. Chiocciola Marta Cagnola, lo so. Chiocciola Di Bellasio. Non abbiamo ancora dei fake. Io lo faccio tuo. Sì. Faccio quello di Marta sul tube. Non sulla palla da demolizione. Appena abbiamo finito lo faccio. No, beh, adesso non voglio... Straordinario. Complicarti l'esistenza. Abbiamo parlato di politica. Adesso basta politica. Non parliamo di temi controversi. Sarà un blocco della trasmissione senza polemiche. E generalista. E molto generalista. Parliamo solo di Rai. Di Rai. Qua ci deve essere un refuso però sul dato di audience che hai detto. Perché tu... No, dici malissimo. È impossibile. Beh, insomma, malissimo. Non è andato benissimo. Mission, che era... Ma come? Ha vinto assolutamente. Non ha vinto assolutamente. No, dai, allora, dimmi ha conquistato 2.165.000 spettatori, pari all'8,16%, la trasmissione più attesa e sulla quale sono nate più polemiche prima che andasse in onda, forse una delle più bersagliate dalle polemiche preventive. Ne parleremo tra poco. Battuta dalle Tre Rose di Eva 2, 5.445.000 spettatori, pari al 20,35%, su Rai 2 Inter Trapani. E vabbè, io non l'ho guardata, ma ho guardato Mission. Ma infatti sei riuscito a non guardare l'Inter? Ma no, ma 8,85%. Questa. E poi vabbè, insomma, il resto insomma, ma il servizio pubblico vince quando fa servizio pubblico, no? Io parlerei, intanto ascolterei un pezzettino di Mission, vediamo. E poi ne parlerei anche con un ospite. Ascoltiamo cosa è andato subito in onda all'inizio di Mission, questa trasmissione contestatissima. Correvo e pensavo. Correvo e pensavo qual era il fucile che sparava verso di me. Ero piccolo, ho pensato di essere più piccolo delle pallottole, più veloce, ho pensato di essere invisibile, oppure inconsistente, come il fumo. Poi, quando ho smesso di correre, perché ero abbastanza lontano, ho pensato di andare via. Non volevo più avere paura, no. Per la prima volta su Rai 1, i rifugiati, gli sfollati di paesi come la Giordania, il Mali, Ecuador, la Repubblica Democratica del Congo, dove si stanno vivendo delle gravi crisi umanitarie,

un campione assoluto, per esempio, con cui facciamo molte cose, è Barenboim. Ah beh, un affabulatore, un uomo che ti ipnotizza quando parla. Red, come la vedi questo altro esperimento? Quindi la televisione tradizionale, cioè nel televisore, che però parla di un genere di musica, anche questo appunto molto larga, molto particolare. Beh, io gli faccio i complimenti perché so che è più difficile, perché mentre nell'ambiente del pop e del rock i personaggi sono più abituati a un confronto con i fan, eccetera, io quando ho provato di mettere la musica classica, e ce l'ho fatta perché ho collaborato con Pavarotti, viene da me Andrea Griminelli che è un bravissimo flautista, però anche la prima volta che veniva, pur essendo giovane, era abituato, era un po' ingessato perché era abituato a una musica classica che solitamente viene fatta in fracche, viene fatta in teatri, quindi l'approccio con un pubblico che non sta in silenzio, ma il silenzio te lo devi conquistare, era molto arduo, e soprattutto è arduo fargli raccontare, perché attenzione, mentre un artista diciamo nasce e si sviluppa nel caos, nella vita, mentre un artista classico si sviluppa con anni e anni di sacrifici e di duro studio, e questo qui fanno sì che sia meno espansivo umanamente, quindi l'esperimento di fare questa cosa è un esperimento molto più difficile di quello che sto facendo io, è molto più arduo e molto più lodevole, anche è giusto avvicinare la musica classica ai ragazzi e renderla più umana. Mi piacciono questi due. Sì, perché appunto il racconto delle storie, il fatto che dietro a dei successi ci siano delle storie di persone, e raccontare le persone, secondo me, è un buon modo anche per avere successo, e le due cose si tengono. Io vorrei riavere nelle prossime puntate ancora qualche volta Red Ronnie e Piero Maranghi, perché mi piace molto parlare di musica in televisione, e uso la televisione nel e farlo senso alla radio, ovviamente. E farlo alla radio tutto assieme abbiamo messo la televisione così come concetto, perché non è detto che sia più nel televisore, ma ce l'abbiamo in mano. Mi piace molto questa cosa. Grazie mille a Red Ronnie, grazie a Piero Maranghi. Buona musica. Allora, li rivogliamo? Li rivogliamo ascoltare. E noi ci risentiamo però tra poco, perché abbiamo altre cose. Sì, dobbiamo dire poi chi ti piace tra i candidati. Lo diciamo tra poco. A tra poco. YouTube. Rieccoci insieme con tanti ospiti, musica. Ospiti. Non abbiamo finito, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di Rai e di Mission Rai, con il cattivissimo Gianluca Nicoletti. Un po' di giornalismo dovremmo parlare. Noi abbiamo avuto come tormentone per tante puntate il talk politico. Sì. Come sta il talk politico? Sta bene il talk politico? Però c'è un altro tipo di talk che appassiona gli italiani. Sì. Ed è quello che si occupa di cronaca. Di cronaca nera. Di cronaca nera, chissà se è in salute, non è in salute. Io vorrei. Di misteri. Di gialli. Io vorrei farvi ascoltare un estratto. Io vi dico la verità, quando l'ho visto e quando l'ho risentito è stato quasi disturbante, anzi direi davvero disturbante. È solo un minimo estratto di una puntata, di una trasmissione veramente sconvolgente, e qui vi assicuro non sto scherzando, che riguardava il femminicidio. Non mi piace molto come espressione, ma così ci capiamo. Riguardava la storia di uomini violenti, e in particolare un'intervista a un uomo il cui volto è stato oscurato. Ne ascoltiamo veramente solo qualche secondo, un'intervista che veramente apriva uno squarcio su una realtà tremenda. Eccola. Se l'uomo si sente un debole, non penso che la donna sia contenta. E se uno fa finta di essere forte, penso che la donna lo capisce. Magari sbagli, però come a dire lo stesso. Buonasera, è un amore davvero ammalato quello di quest'uomo. È abusato di una donna, adesso è in cura. Cade spesso a farne le spese, sono mogli, compagne, fidanzate, uccise da chi diceva di amarle. Ne parleremo, adesso guardiamo quante scarpe rosse ci sono in questa piazza, una piazza di Trapani, sono tutte scarpe rosse in memoria di una mamma, mamma Maria, e anche di questo parleremo tra poco, anche perché questa è stata la settimana contro i femminicidi, la settimana delle scarpe rosse. Alessandra. È così, Gianluigi, scarpe rosse che hanno riempito... Allora, questo era l'inizio di una puntata di Quarto Grado. Avete sentito il conduttore, che è Gianluigi Nuzzi, ed è con noi stasera. Buonasera, Gianluigi. Buonasera. Buonasera a voi, eccoci qua, buonasera. Allora, un argomento difficilissimo da trattare in televisione, un argomento molto controverso. Voi avete deciso di aprire quella puntata con un video che io ho definito disturbante, che mi ha veramente sconvolto. L'intervista, lo sentivamo, a un uomo che ha confessato di avere perpetrato violenze su una donna. Che esperienza è per te, Gianluigi, un talk show di questo tipo? Ma guarda, dipende se vogliamo aprire una finestra o barricarci in casa. Se vieni in redazione da noi, di quelle telefonate ne riceviamo veramente tante, ne riceviamo troppe, di mamme, mogli, fidanzate, compagni. Anche a me il termine femminicidio non piace tantissimo, e noi la nostra campagna delle scarpe rosse abbiamo ricevuto oltre 4.000 fotografie in poche settimane da parte dei telespettatori con le loro scarpe rosse. La scarpa rossa è un simbolo. Ecco che noi, la nostra è una campagna contro le violenze alle donne, insomma. Ecco, perché la nostra trasmissione RadioTube si occupa della televisione soprattutto quando arriva in rete, quando ha delle reazioni in rete. Un po' è la social TV, Daniele. Sì, e l'utilizzo del virale, della fotografia virtuoso è proprio questo, no? Un simbolo che attraverso la rete diventa una fotografia virale che dice una cosa forte, simbolica e concreta. Gianluigi, poi cosa succederà di tutte queste fotografie? Ma guarda, noi ne abbiamo ricevute 4.000, oltre 4.000, che abbiamo avuto oltre 70.000 visualizzazioni su Facebook, per esempio, per quanto riguarda le scarpe rosse. Queste scarpe rosse, queste fotografie dei nostri telespettatori diventeranno delle installazioni. Abbiamo coinvolto un artista contemporaneo che è Alessandro Gedda, che proprio lunedì o martedì viene qua in redazione con i primi prototipi, perché le scarpe, queste fotografie diventino delle installazioni modulari, cioè componibili, che poi andremo a portare nelle piazze dove accadono dei fatti che non devono accadere e nelle piazze delle grandi città, per avere un richiamo, una visibilità e una sensibilizzazione. Sono d'accordo, ne parleremo ancora, Gianluigi. Io però, senza assolutamente sminuire questo tema che io porto, come tutte le donne, particolarmente a cuore, vorrei concludere la nostra puntata di RadioTube con un piccolo sorriso. Va bene, Daniele? Lo facciamo un sorrisino. Sì, per prepararci alle feste. Le feste facciano riflettere e anche sorridere. Ci facciano riflettere, sorridere, ma... Ho la domanda topica di questi giorni, posso farla? Sono pronto a rispondere. La faccio anche poi a Gianluigi. Daniele, cosa fai a Capodanno? Io scelgo il vago, ma non lo so, decido all'ultimo minuto, vediamo. Gianluigi, sai perché faccio questa domanda a Daniele? Poi la farò anche a te. Perché, non so se tu lo conosci, un altro fenomeno della rete, che è Pinuccio, autore di video virali irresistibili. Va anche nella televisione, nella vecchia televisione? Ci ha provato ad andare anche nella televisione, quella nello scatolone, solo nello scatolone. L'ultimo video che ha postato riguarda proprio Capodanno, quindi un sorrisino concediamocelo. Ah no, io da amici all'ultimo momento, vediamo, ci organizziamo. No, io siccome faccio Natale dai genitori di mia moglie, poi Capodanno lo faccio dai miei, che ci alterniamo per non lasciarli soli. No, io faccio un viaggio e poi lo vedrete proprio su Facebook, che metterò tante foto e scriverò perché non siete qui, volevo che foste qui con me, il paradiso, non torno più, farò la foto del piede sui paesaggi per farvi vedere, ma perché non venite pure voi? Ma chissà, Daniele, c'erano le definizioni tra uno e l'altro. Il vago, Pietro che cosa fa a Capodanno? Pietro la Corte cosa fa a Capodanno? Fa il vago, va il anche vago. Lui tutti Gianluigi. Vaghi anche secondo me anche Gianluigi farà il vago. Anche secondo me Gianluigi fa il vago anche tu. La tentazione è fortissima in realtà. Vorrei andare a vedere un paese, una città molto lontana da me, sotto molti profili, che è Dubai, una settimana. La torre più alta del mondo, no? Cioè. Perché voi non venite piuttosto a quello che vi volevo dire? Ma Marta, infatti, ma ci stava pensando. Adesso deve rispondere a una domandina finale, ma poi dopo fa la valigia. Grazie Gianluigi Nuzzi. Grazie, grazie. Buona continuazione, grazie a voi. Grazie, a presto. Che bella questa campagna di Gianluigi Nuzzi, che bella questa campagna di questa Quarto Grado. La domandina? Dunque, sì, la domandina. Ci sono tre candidati. Sì. Matteo Renzi, sì. Gianni Cuperlo e Pippo Civati. Civati, chi è il più carino era? Sì. Io sto per Matteo Renzi. Niente, secondo la par condicio più... è crollata. No, no, è estetica. Io dico che lo sguardo estetica. Di Gianni Cuperlo però... è lo sguardo Oddio, di Gianni Cooper e la barbetta, la barbetta di Civati, no, allora sì, facciamo sì, che sì. Ci io penso. Poi sulla barbetta ho una certa propensione, ci pensiamo siamo par condicio ristabilita. Dai, ciao Vasco, io dico tu saluti Vasco, io saluto tutti i nostri ospiti, questa settimana sono stati tantissimi, saluto anche Pietro Lacorte in regia. Con RadioTube invece ci ritroviamo il prossimo fine settimana, se ci volete trovare in questi giorni sempre su Twitter @MartaCagnola @DiBellasio. Sono stata brava? Sì, per la undecima ci troviamo. La undecima, la prossima settimana.